Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La Corte Costituzionale austriaca ha deciso, il ballottaggio per le presidenziali andrà rifatto, aveva vinto di misura il candidato verde contro quello euroscettico. Allarme di Confindustria su Brexit e sul referendum di ottobre, un no alle riforme potrebbe spingere il paese in recessione, dati positivi intanto oggi sul lavoro. Lo scontro tra PD e 5 Stelle sulla legge elettorale, mentre i sondaggi danno i grillini davanti al partito del Premier. Concluso il restauro degli esterni del Colosseo, finanziato da Della Valle, segnale strepitoso al mondo, dice il presidente del Consiglio Renzi. Intanto però a Roma arranca la raccolta dei rifiuti. In alcune zone cassonetti dati alle fiamme, impianti pieni, fine settimana a rischio. Ronde violente di cittadini cinesi contro i magrebini a Prato. 9 indagati sospettavano che fossero autori di furti, rapine e aggressioni. Sulle spiagge liguri parte il piano di monitoraggio per un'alga urticante, si chiama Ostreopsis ovata, obiettivo avvisare in tempo i bagnanti. Dato per perso, potrebbe farcela Daniele De Rossi per la partita di domani contro la Germania ad Euro 2016, la vincente affronterà il Portogallo. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo e buon venerdì. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, Effetto Giorno @radio24.it per scriverci e il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno per qualche anticipazione prima della trasmissione. In apertura, dunque, le notizie che arrivano dalla Corte Costituzionale austriaca, ci colleghiamo con Vittorio Darold del Sole 24 Ore. Buongiorno. Sì, buongiorno. Insomma, è tutto da rifare a Vienna, tornata ad essere insieme a Londra l'epicentro di una convulsa estate europea. Le elezioni presidenziali austriache, tenutesi lo scorso 22 maggio, sono state invalidate a causa di irregolarità in 14 circoscrizioni elettorali. Non ci sarebbero dei brogli, ma solo il mancato rispetto delle procedure, in particolare il fatto che prima di passare al conteggio dei voti per posta, che sono quelli che poi hanno portato al ribaltamento del voto, che vedevano in prima istanza in vantaggio il candidato dell'estrema destra, Höfer, contro il candidato dei Verdi, Van der Bellen, che naturalmente è stato ribaltato proprio dal conteggio dei voti arrivati appunto per posta. La legge però prevede che questo non possa essere fatto e su questa questione tecnica quindi si ritornerà al voto a settembre. Quindi a settembre il voto in Austria, altro punto di questa estate calda, come già ci diceva il nostro Vittorio Darold, sono di pochi istanti fa le dichiarazioni di Michael Gove, candidato alla leadership dei Tories britannici, dice: metterò fine alla libera circolazione, introdurrò un sistema di punti all'australiana e ridurrò i numeri degli immigrati. Intanto i segnali che arrivano sui mercati nella giornata di oggi sono negativi, anche se non drammaticamente negativi, soprattutto a Milano. Deborah Rosciani. Come abbiamo già detto prima nel corso del nostro collegamento con il giornale radio delle 12, sembra un settore, quello bancario italiano, davvero senza pace e il mercato nei confronti di questo comparto è davvero incontentabile. Adesso non basta neanche più la conferma che è arrivata ieri sera, lo ricorderete, da parte della Commissione europea del via libera al piano di garanzie pubbliche per le banche italiane, per l'appunto fino a 150 miliardi di euro. Un'iniziativa che era auspicata, attesa e che ieri, quando è arrivata, ha ancora proprio nella parte finale della seduta una forte ondata di acquisti sui titoli del settore bancario, che pure stamattina erano partiti piuttosto bene. Tanto per raccontarvi come è andata la giornata, UbiBanca, una società che peraltro ha presentato con grande consenso da parte del mercato il suo piano industriale proprio da pochi giorni, stamattina è partita con un rialzo del 7%, lo ha bruciato tutto nel giro di pochi minuti e adesso perde 2,5 punti. Il peggiore è però Unicredit, complessivamente Milano perde circa 0,5 punto. E Unicredit, dicevamo, ieri è stato designato il nuovo amministratore delegato Mustier, ma a questo punto il mercato guarda un'altra volta oltre e aspetta indicazioni sul possibile necessario aumento di capitale che il gruppo dovrà fare. Questo è il primo test per il nuovo amministratore delegato. Per il resto in rosso ci sono tutti gli altri titoli, con l'unica eccezione di Monte dei Paschi, che invece guadagna 1,5 punti. Questa mattina è arrivata la notizia che il gruppo è in grado di pagare i 46 milioni di interessi sui Monti Bond totalmente in contanti, per cui non trasformerà trasformerà questi interessi in azioni e il Tesoro di conseguenza non dovrà diventare il primo azionista dell'istituto e rimarrà all'attuale 4%. Per cui ancora grande fermento. Simone, direi che per ora è tutto. E ti ringrazio, grazie a Deborah Rosciani. Anche di Brexit si è parlato oggi ad un convegno a Milano del Centro Studi di Confindustria, lo ha seguito Livia Zancanera. Livia, buongiorno. Buongiorno Simone, allora dopo il referendum nel Regno Unito il Centro Studi di Confindustria abbassa le stime sul PIL italiano a più 0,8% quest'anno dal più 1,4% previsto a dicembre e a più 0,6% nel 2017 dal precedente più 1,3%. Le cifre sono più prudenti rispetto a quelle del governo nel DEF di aprile, più 1,2% quest'anno, ma anche di Istat, Fondo Monetario Banca Italia, che stimano un più 1,1% per il 2016. La Brexit avrà un impatto sulla crescita del PIL italiano di un decimo di punto quest'anno e di 5 decimi il prossimo, spiega Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, con 81.000 unità di lavoro in meno rispetto alle previsioni. L'impatto sarà però più evidente nel 2017. Tra gli effetti negativi per il nostro PIL non c'è solo la Brexit, però, ma anche il referendum di ottobre. Con la vittoria del no sarebbe inevitabile una nuova recessione, spiega Confindustria, e sentiamo il presidente Vincenzo Boccia. Confindustria deve schierarsi se condivide, diciamo, argomenti e contenuti. Il referendum è una questione di governabilità e di stabilità che permette una stagione di riforme economiche che va orientata, secondo noi, verso una politica dell'offerta per rendere competitive le nostre imprese. Avere un paese che va in campagna elettorale ogni 6 mesi significa non avere una visione lunga del paese. Il Centro Studi ha previsto che uno degli scenari probabili può essere l'eventuale caduta del governo e quindi una sorta di caos politico, e questo potrebbe accelerare una questione, come dire, di criticità al paese che non è da augurarsi, chiaramente. Boccia ha parlato anche di banche, la garanzia statale da 150 miliardi di euro è un paracadute per la liquidità, evidentemente c'è qualche criticità su qualche banca, ma il sistema è solido, ed è tutto. A te Simone. Grazie Livia Zancaner, ma ci sono anche gli effetti pratici. Brexit, l'estate dell'incertezza. Dove per pratici intendiamo sulla vita di tutti i giorni, banche, pensioni, casa, risparmi, come affrontare e vincere questi rischi. Il Sole 24 Ore sta dedicando ogni giorno 4 pagine con lo speciale L'estate dell'incertezza, al quale dedichiamo uno spazio anche qua a Radio 24, e oggi parliamo del lavoro e della tutela dei lavoratori in Gran Bretagna. Lo facciamo con Giampiero Falasca, giuslavorista dello studio DLA Piper e collaboratore del Sole 24 Ore. Falasca, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, che cosa possiamo attenderci? Innanzitutto, niente nell'immediato. Esatto. Ora abbiamo una sola certezza, cioè che si costruirà un muro. Però quanto sarà alto questo muro ancora non lo sappiamo. Ci sono 2 anni di negoziati, durante questi 2 anni nulla cambia, tutto resta ancora così com'è, ma appunto alla fine di questo biennio sapremo quante e quali barriere saranno poste tra noi e la Gran Bretagna, su tutti i campi, compreso quello del lavoro. Su questo la domanda più grande che c'è da farsi è: si reintrodurrà il visto d'ingresso e il permesso di lavoro? Probabilmente la risposta è sì. Questo sarebbe un peggioramento enorme per chi oggi dall'Italia parte e va nel Regno Unito per lavorare o per cercare lavoro. Cioè si tornerà ad un sistema che già esisteva prima dell'Unione Europea e che esiste tuttora per paesi che stanno fuori dall'Unione Europea. Quindi non ci sarà più la possibilità di fare come facciamo oggi. E poi c'è una questione che riguarda il welfare, no? Esatto. Diciamo, noi in generale perdiamo lo status di cittadini, perché non siamo più cittadini della stessa comunità, noi e i britannici. Quindi anche l'ingresso al sistema di welfare sarà sicuramente più restrittivo, anche perché uno dei motivi per cui hanno spinto la maggioranza dei britannici a votare Leave è proprio questo, cioè l'idea che ci fosse troppa apertura verso gli stranieri, diciamo così, semplificando. Grazie, io la ringrazio, grazie a Giampiero Falasca dello studio DLA Piper, appunto, e collaboratore del Sole 24 Ore. Tutti i dettagli li trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola, insieme ad altre cose ancora, come il rischio sterlina, i rapporti commerciali, gli investimenti esteri naturalmente, e molto altro. Abbiamo parlato di lavoro, ebbene sono di oggi i dati sull'occupazione. Variazioni in termini di decimali, ma comunque positivi per il mondo del lavoro. Il tasso di disoccupazione a maggio cala allora, secondo l'Istat, all'11,5% rispetto all'11,6% di aprile, secondo il dato rivisto. Sempre a maggio il tasso di occupazione risulta invece pari al 57,1%, in aumento di 0,1 punti percentuali sul mese precedente. Il trimestre marzo-maggio 2016 indica inoltre 101.000 unità occupate in più rispetto ai tre mesi precedenti, con segnali di crescita diffusa su tutte le principali componenti. Resta invariato invece il tasso della disoccupazione giovanile, fermo al 36,9%. Soddisfazione da Palazzo Chigi. Con i dati Istat di oggi siamo a 497.000 posti di lavoro in più da febbraio 2014, scrive il presidente del Consiglio Renzi. Il Jobs Act, aggiunge, ha creato lavoro stabile. Avanti tutta. I dati sono positivi, dice il ministro del Lavoro Poletti, in quanto confermano una tendenza di crescita dell'occupazione e in gran parte si tratta di occupati stabili. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo all'inaugurazione oggi del restauro esterno del Colosseo. Teresa Trillò ha seguito questa cerimonia. Buongiorno Teresa. Buongiorno Simone. Sì, allora il restauro appunto è stato inaugurato da pochissimo tempo fa, un intervento che è costato 25 milioni ed è stato finanziato da Diego Della Valle. Un primo esempio, ha detto il ministro Franceschini, della collaborazione tra pubblico e privato, e Della Valle ha sottolineato sempre il ministro dei beni culturali, ha finanziato il restauro prima che ci fossero gli incentivi fiscali per spingere i privati a collaborare al recupero del patrimonio artistico del paese. E nella fase sperimentale l'Art Bonus ha superato 100 milioni di donazioni e i donatori sono stati oltre 3.000. Per Matteo Renzi il restauro del Colosseo è l'esempio che i soldi per la cultura ci sono ed è finito il tempo delle cose che non si fanno. L'intervento del Colosseo inoltre è di qualità, ha sottolineato Renzi. Della Valle è andato avanti con la consueta tenacia e la prima parte dei lavori è finita in anticipo. Della Valle non si è risparmiato, ha detto che appunto il mondo degli imprenditori è generoso, non si tira indietro ed è pronto a mettere a disposizione del paese le risorse e la voglia di fare, anche perché il paese ha bisogno dei giovani che restino in Italia a lavorare, di artigiani che non chiudano e di un paese dove si possa vivere tranquillamente. Per ora è tutto. Grazie alla nostra Teresa Trillò per questo aggiornamento. Noi passiamo alla cronaca e veniamo al processo Iara. Dovrebbe arrivare oggi la sentenza per Massimo Giuseppe Bossetti, unico imputato. Siamo in linea col collega dell'Eco di Bergamo, Vittorio Attanà. Buongiorno Vittorio, benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Poi sappiamo che su queste vicende sei spesso ospite della nostra trasmissione gemella, quella di Roberta Giordano, Effetto Notte, quindi presumibilmente ti richiamerà anche questa sera, anche perché la sentenza è attesa per le 20, no? Più o meno, sì, non prima. Confermo, la Presidente della Corte d'Assise che deve giudicare Massimo Bossetti ha detto la sentenza non prima delle 20. Di solito per chi ha esperienza di cronaca giudiziaria questo è un orario assolutamente indicativo che solitamente viene disatteso, nel senso che è facile che ci siano poi ritardi, quindi la sentenza potrebbe arrivare veramente anche a sera inoltrata. Questo non lo sappiamo, bisogna essere lì insomma a documentare la cosa, però è frequente che si ritardi. Oggi è intervenuto lo stesso Bossetti in aula, no? Sì, oggi ha fatto un lungo intervento lo stesso Bossetti, ne ha facoltà in qualunque momento del processo e quindi anche nella sua conclusione. La difesa ha l'ultima parola e quindi è giusto che sia così. Lui si è dilungato appunto elencando quelli che sono le sue caratteristiche, ecco, lui si è definito una persona forse magari ignorante, magari ingenua, piena di difetti, ecco, ma non sicuramente un assassino. Lui ha cercato di fare leva appunto sull'emotività per convincere in particolare, ritengo, la giuria popolare, che appunto la Corte d'Assise è composta da due magistrati togati, ma anche da sei giudici popolari, appunto, che sono cittadini come noi, che magari non sono esperti di diritto, non sono esperti di DNA e conservano un po' quello che è il giudizio a pelle nei confronti della persona, e quindi lui ha cercato appunto di convincere loro. Dicendo tra l'altro, vi supplico, rifacciamo la prova del DNA, no? Sì, lo ha detto lui, praticamente tutti sappiamo che a tenere ancorato all'accusa di omicidio Bossetti è questo DNA trovato sugli indumenti di Iara, per cui lui ha cercato di smontarlo dicendo ma quale imputato chiederebbe la ripetizione del test sapendo di essere colpevole? Nessuno, perché ovviamente sarebbe la prova del 9 della colpevolezza. Lui ha insistito molto su questo punto. In realtà chi invece, i detrattori di Bossetti dicono, ovvio lo chiede, ma è il suo ultimo bluff, perché fondamentalmente sa già che è stato detto di no a questo test, che oltretutto probabilmente non si può più neppure ripetere perché il materiale genetico da analizzare è sostanzialmente finito. Ti ringrazio, grazie a Vittorio Attanà dell'Eco di Bergamo, poi trovate molti aggiornamenti anche sul sito del loro quotidiano, il quotidiano della città, l'Eco di Bergamo, e anche là potrete andare. Prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, aggiornamenti dalla nazionale di calcio, soprattutto Dario Ricci, vogliamo sapere di De Rossi. Davvero diventa un bel enigma. Intanto buongiorno da Bordeaux. Caro Simone, perché quel Daniele De Rossi che tutti avevamo dato ormai fuori dalla sfida di domani con la Germania sembra in evidente e quasi prodigioso recupero. Sta lavorando tantissimo, ieri si è allenato da solo alle 9 del mattino sul campo del Bernard Gasset di Montpellier. Questa mattina non avrebbe partecipato all'allenamento mattutino, ma almeno per il quarto d'ora che chiaramente è visibile alla stampa, continua il lavoro differenziato, quindi sembra in recupero. La volontà del giocatore è fortissima, il dialogo con CT Conte è sempre aperto, sarà una decisione dell'ultimo minuto, anche se poi lo stesso Conte ha già pronta l'alternativa all'eventuale lancio da titolare di Sturaro, affidando la regia a Parolo. Però chissà mai che capitan futuro, così come lo chiamano i tifosi della Roma, non faccia questo miracolo. Se sì, speriamo che sia completo, perché domani servono 11 effettive al 110% delle loro possibilità. Intanto questa sera alle 19:15 forse ne sapremo qualcosina in più, direi di no, però conferenza stampa ufficiale di Antonio Conte, di capitano Buffon, alla vigilia della sfida con i tedeschi. Va bene, grazie al nostro Dario Ricci. Dunque appuntamento domani alle 21 per Italia-Germania. Noi adesso sentiamo cosa succede sulle strade, poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Come sapete, a noi piace un po' di più la provincia generalmente e genericamente intesa, e però a volte troviamo delle storie su Roma e le cose che accadono su Roma ci portano necessariamente sulla capitale. Nella fattispecie, e i romani che ci ascoltano lo sanno, sono tutti i sacchetti di spazzatura che vedono in giro in queste ore. Partiremo da là dopo il traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della decisione della Corte Costituzionale austriaca, che ha deciso che va ripetuto il ballottaggio per le presidenziali. Abbiamo parlato dell'allarme di Confindustria sulla Brexit e sul referendum di ottobre per la riforma costituzionale. Abbiamo parlato del restauro degli esterni del Colosseo, che si è concluso, e adesso però restiamo a Roma per parlare di quello che sta succedendo sul fronte della raccolta dei rifiuti. Daniele Fortini è il presidente dell'AMA, che è l'azienda che se ne occupa, la municipalizzata romana che se ne occupa. Buongiorno Fortini, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Tra l'altro fresco di riconferma, quantomeno di proroga, da parte della neosindaca Virginia Raggi, e però la situazione mi sembra, non dico drammatica perché non vorrei esagerare, però discretamente problematica in queste ore dal punto di vista della raccolta, sacchetti per strada, in alcune zone della città hanno addirittura dato fuoco a dei cassonetti. Cosa sta succedendo? Ma intanto mi consenta una premessa: io non sono né riconfermato né prorogato, sono in attesa dal dimissionario che il sindaco decida di costituire i nuovi organi dell'azienda. Sì. Detto questo, la situazione sul campo sta tornando alla normalità. Ci sono stati nei giorni scorsi problemi, difficoltà connessi alla festività infrasettimanale. A Roma era la festa del patrono, sì, di San Pietro e Paolo. Esattamente, e una serie di circostanze come il rinnovo del contratto nazionale di lavoro del settore, che ovviamente, diciamo così, lascia qualche strascico nelle iniziative di parte sindacale. Ma detto questo, insieme a problematiche tecniche, impianti di trattamento dei rifiuti non disponibili nella regione Lazio, difficoltà nell'esportazione dei rifiuti, si è creata una condizione di criticità che purtroppo tipica di questa fase. Anche nel 2013, 14 e 15, a giugno, quando i rifiuti vengono generati in maggiori volumi, sì, e quando gli impianti di smaltimento del nord Italia vanno in manutenzione, penso soprattutto agli inceneritori che durante l'estate svolgono i loro programmi di manutenzione e di aggiornamento, perché d'inverno invece devono bruciare rifiuti in modo intenso per poter riscaldare poi attraverso il teleriscaldamento abitazioni ed uffici, insomma una serie di circostanze, sì, per cui più rifiuti, minore disponibilità di impianti. Quest'anno abbiamo avuto anche un'agitazione sindacale che è la, sì, più cruenta degli ultimi 30 anni, e quindi si è creata qualche criticità. Ma scusi, la situazione sta tornando alla normalità. Detto ciò, Fortini, genericamente mi sembra di capire che si lavora un po' sempre al limite, cioè finché l'ordinario si regge al limite, appena accade un fatto minimamente straordinario o in questo caso ordinario come l'incremento di rifiuti estivo, il problema si crea. Beh, e questo è il dramma della capitale d'Italia. Vede, mentre Londra, Parigi, Berlino risolvono la gestione dei rifiuti, del ciclo integrato, quindi dalla raccolta, la raccolta differenziata, lo spazzamento, il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento dentro il loro territorio metropolitano per il 98% dei rifiuti che vengono generati, noi riusciamo soltanto nel 36% per i nostri rifiuti, il che vuol dire che abbiamo bisogno del soccorso esterno. Il sistema industriale di trattamento dei rifiuti di Roma è arcaico, precario, fragilissimo, e quindi basta uno stormir di fronda e noi andiamo in difficoltà. Per questo serve programmare, progettare e soprattutto costruire rapidamente impianti nei quali si possa consegnare, sì, le nostre raccolte differenziate, che sono, sì, importanti, siamo al 42%, sì, e i rifiuti indifferenziati, in modo tale da renderci autonomi e liberi come lo sono le altre capitali europee. Tra l'altro, mi scusi Fortini, questo è il problema più generale. Intanto, più sulla stretta cronaca, l'11 e 12 luglio c'è sciopero. Io mi auguro sinceramente di no, confido che le parti trovino un'intesa. Noi come Roma possiamo esercitare un ruolo importante, noi abbiamo 8.000 dei 40.000 aderenti al contratto Utilitalia Ambiente, possiamo esercitare un peso rilevante e lo stiamo esercitando in direzione di un rinnovo contrattuale equo che non aumenti le tasse ai cittadini, che migliori la produttività e l'efficienza e che dia il giusto riconoscimento ai lavoratori. Credo che lo sciopero sarà scongiurato. Speriamo, perché là è un'infilata con fine settimana, sabato e domenica 9 e 10, dove evidentemente si lavora a ritmi ridotti, accade sempre, no? Questo, e poi, certo, 11, 12 lunedì e martedì si rischia la catastrofe. Esattamente, così come abbiamo qualificato come dolorosi gli scioperi che abbiamo già patito il 30 maggio e il 15 giugno, questo dell'11 e 12 luglio proclamato dalle organizzazioni sindacali potrebbe avere dei risvolti catastrofici. Per questo io mi auguro che il senso di responsabilità dei lavoratori e della delegazione trattante di Utilitalia sia in grado di arrivare a una composizione della vertenza. La ringrazio, grazie Daniele Fortini, presidente dell'AMA, per essere stato con noi. Il prossimo punto che mettiamo sulla nostra mappa, quella che trovate anche sul sito www.radio24.it, è Prato. Abbiamo in linea il sindaco Matteo Biffoni. Buongiorno Biffoni, benvenuto. Buongiorno a voi. E anche oggi torniamo a parlare di cinesi. Lo abbiamo fatto ieri con Angelo Hu, l'avete sentito, è un consigliere comunale di Campi Bisenzio che ha seguito tutta la vicenda della rivolta di Sesto Fiorentino. Oggi emerge un altro fatto di cronaca. La polizia, le forze dell'ordine avrebbero identificato un'organizzazione di cittadini cinesi che si occupava, per così dire, di farsi giustizia da solo, no? Facevano sostanzialmente delle ronde contro i magrebini. Una di fatto una lotta tra immigrati, che però sembra porre abbastanza chiaramente Biffoni un problema di sicurezza che sentono anche i cinesi. Sentono soprattutto i cinesi, sì. Nel senso che storicamente la comunità, essendo considerata almeno tra i delinquenti, diciamo, a giro per questo paese, una comunità aggredibile in maniera semplice, molto contante, molto oro, spesso la non conoscenza della lingua o addirittura la situazione di clandestinità proprio rappresentavano come una preda facile e spesso con buoni risultati, purtroppo dal punto di vista della predatorio, ecco, mettiamola in questo modo. E quindi c'è stato i numeri, diciamo, dell'aggressione verso la comunità, che a Prato è molto consistente, sì. Sono sempre stati numeri molto alti, sono stati la preda preferita di questi ladri, di questi banditi maledetti. Una comunità più indifesa per certi aspetti, anche perché più irregolare, Biffoni, diciamo. Certo. Scusa, accennavo prima, nel senso irregolare, in alcuni casi irregolare molto spesso, ma certe volte anche con difficoltà di espressione, quindi anche telefonare ai 113 diventava complicato perché non sai spiegare dove sei, quello che ti è successo. E poi c'è la condizione di clandestinità che ti rende ancora più vulnerabile da questo punto di vista. Ecco perché i numeri delle rapine, dei furti per questa comunità sono numeri molto importanti e significativi, le forze dell'ordine ce l'hanno sempre raccontato. Questo non giustifica però che qualcuno possa pensare a farsi giustizia da solo. Questo è chiaro, è evidente. Secondo lei ci vogliono più uomini dal Ministero dell'Interno? Avete bisogno di più uomini dal Ministero dell'Interno? E la questura di Prato è una questura che, come il questore l'altra sera ci ha comunicato, e comunque è considerata bene, ha buoni rinforzi dal punto di vista del Ministero, quindi ha numeri piuttosto. Certo, una città come la nostra, che ha questo fenomeno in particolare, più tutte le dinamiche di una città da 200.000 abitanti, più forze dell'ordine ci sono e più siamo contenti. Indubbiamente il rinforzo lo prenderemo a braccia aperte. Vediamo un po', avete intenzione di chiederlo, Biffoni, o no? L'ho già chiesto, no? Nel senso, la discussione, in particolare noi abbiamo un'esposizione sul tribunale, i tribunali italiani sono tutti abbastanza in affanno, lo sappiamo, c'era poco tempo fa anche su Repubblica, Spataro aveva scritto appunto della situazione dei tribunali di Torino, di Napoli, eccetera. Ecco, anche il Tribunale di Prato è in grande difficoltà, poi ovviamente, ripeto, i rinforzi di polizia, carabinieri, guardia di finanza sono comunque rinforzi che qualsiasi sindaco anela, a cui noi costantemente aspiriamo, lavoriamo in ministero ovviamente per dare le informazioni per far sì che ci sia il massimo rinforzo. Io sono abbastanza contento, il lavoro che fa la questura è assolutamente un grandissimo lavoro, non posso far altro che ringraziare davvero le forze dell'ordine, perché l'impegno è costante, assoluto e sta dando grandi risultati. Detto questo, ecco, i rinforzi sono benvenuti e noi abbiamo una preoccupazione sul tribunale, questa sia abbastanza forte. La ringrazio, grazie Matteo Biffoni, sindaco di Prato, per essere stato con noi e per questa parte di racconto. E visto che il punto sulla mappa adesso l'abbiamo messo in Toscana, fatemi rispondere ad un ascoltatore che invece su un punto che abbiamo messo sulla mappa nei giorni scorsi, ossia Firenze, Piazza Duomo, la vicenda della quale abbiamo raccontato, quella di McDonald's che vuole aprire in piazza, un ascoltatore osserva, ed evidentemente ha sentito solamente quella puntata, osserva: non fate sentire solamente la voce di McDonald's, fate sentire anche quella del sindaco, dell'amministrazione. Lo abbiamo fatto ampiamente, abbiamo sentito l'assessore Bettarini, ci torneremo nei prossimi giorni perché è una vicenda che sta facendo discutere parecchio e il 5 luglio dovrebbe esserci la decisione definitiva, quindi martedì prossimo e magari martedì vediamo di tornarci. Intanto ci fermiamo, c'è una pausa, come sempre c'è la borsa e poi tra le altre cose di cui parleremo di una metteremo il nostro punto sulla mappa, lo metteremo in Liguria perché c'è un problema con un'alga urticante ed è partito un piano di monitoraggio del quale in qualche modo anche Radio 24 si sta occupando. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la Corte Costituzionale austriaca ha deciso il ballottaggio per le presidenziali andrà rifatto, aveva vinto di misura il candidato verde contro quello euroscettico. Allarme di Confindustria su Brexit e anche sul referendum di ottobre, un no alle riforme potrebbe spingere il paese in recessione. Dati positivi intanto oggi sul mercato del lavoro, salgono gli occupati, scende la disoccupazione. Intanto è scontro tra PD e 5 Stelle sulla legge elettorale, mentre i sondaggi danno i grillini davanti al partito del Premier. Concluso il restauro degli esterni del Colosseo, finanziato da Della Valle, segnale strepitoso al mondo, dice il presidente del Consiglio Renzi. Dato per perso, potrebbe farcela Daniele De Rossi per la partita di domani contro la Germania ad Euro 2016. La vincente affronterà il Portogallo. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presento. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, innanzitutto una correzione, non sommergetemi, un po' di messaggi su WhatsApp sono arrivati, è vero, abbiamo fatto un errore nei nostri titoli, abbiamo detto che l'Italia, che la vincente tra Italia e Germania giocherà con il Portogallo che appunto ha battuto ieri la Polonia, ovviamente non è così, ma il Portogallo giocherà con la vincente tra Galles e Belgio per quanto riguarda gli europei, di tutto questo torneremo a parlare naturalmente dopo le 14 in tutti i convocati. Adesso però il prossimo punto sulla mappa che mettiamo è in Liguria, per qualcosa che arriva sulle nostre spiagge. Si tratta di una piccola alga che si chiama Ostreopsis ovata e che ha creato qualche problema nelle estati scorse, perché ha creato irritazioni e non solamente quello. Adesso è partito un piano di monitoraggio, un piano di monitoraggio del quale anche Radio 24 si sta interessando, e ne vogliamo parlare con Federico Pedrocchi, e il nostro Federico Pedrocchi di Mebius, e Rosella Bertolotto di ARPA Liguria. Allora Federico, spiegaci cos'è innanzitutto quest'alga. Allora, c'è stato un progetto europeo su tutto il Mediterraneo che è andato a vedere che cosa combina questa microalga. Non bisogna pensare a quelle alghe grosse che si vedono, è proprio infinitesima, che improvvisamente, perché è molto rapida, va a finire in golfetti, si sviluppa in piccoli golfi, anche mica tanto piccoli, e certo nel giro di poche ore quel luogo diventa, beh, insomma, decisamente fastidioso. Niente di gravissimo, però insomma, ustioni, alcuni devono finire in ospedale, occhi gonfi, si risolve magari in 10 giorni, ma certo il bagno è assolutamente proibito. Il progetto, di cui faceva parte anche ARPA Liguria, ha cercato di capire come esplodono queste alghe, e quindi cercando di avere dei segnali che riescono ad anticipare l'allarme, che è molto diverso. Naturalmente. E come vi state muovendo, Bertolotto? Ce lo dice? Allora, come ogni anno, noi facciamo un monitoraggio specifico sulle fioriture di alghe potenzialmente tossiche. Si chiamano così, microalghe potenzialmente tossiche, perché non sempre sono tossiche. Ci sono stati casi in cui alle fioriture sono seguiti degli effetti, diciamo, sulla salute dei bagnanti, e quindi non tanto le ustioni che diceva prima Federico, quanto fastidi di tipo all'apparato respiratorio, oppure in alcuni casi dermatiti, dove ci sono delle fioriture, diciamo, conclamate, quindi con presenza di cosiddetti mucillagini sulla superficie dell'acqua. Sì. Se qualcuno immergendosi viene a contatto con queste diciamo microalghe aggregate, quindi si vedono a questo punto, è possibile avere degli effetti cutanei fastidiosi, ad esempio dermatiti. Quello che state cercando di fare voi, mi sembra di aver capito, è prevenire tutto questo, cioè cercare di capire prima dove può arrivare questa maxi, esatto, fioritura delle alghe. È una prevenzione, nel senso di dare consigli alla popolazione, non tanto di impedire che questo avvenga, perché naturalmente non siamo in grado di impedirlo, però siamo in grado di avvertire le persone se questo fenomeno comincia a presentarsi e dargli consigli, per cui ad esempio non immergetevi in acque molto ferme, molto calde, molto protette, quindi dove si creano, ad esempio, a volte capita che grazie magari a pennelli, a molli eccetera, si creino delle zone in cui l'acqua è molto bassa, molto calda, perché è molto ferma. Mm-hmm. E lì è uno dei posti che l'Ostreopsis preferisce per dare inizio alle sue fioriture. E quindi parte questo progetto di monitoraggio, e Federico, per andare a chiudere, noi faremo uno streaming, sì, dedicato a questo, no? Sì, dall'Istituto Radio Allora, si può andare al sito della radio, si troverà un bollone anche con un'immagine dell'Ostreopsis e lì ci si potrà collegare per iscriversi a questo, si chiama webinar in gergale, ma insomma loro dell'ARPA, più probabilmente anche alcuni del progetto proprio di ricerca dell'Università di Genova, spiegheranno un po' di cose a chi? Beh, alle autorità comunali, a tutti coloro che sono interessati, perché magari gestiscono bar, bagni, insomma, per cercare di agevolare questa cosa. Sarà il 4 luglio, lunedì, dalle 10.30 a mezzogiorno. Se andate al sito, vi iscrivete e poi ci sentiamo in onda. Bene, bene. Grazie dunque a Federico Pedrocchi, a Rosella Bertolotto di ARPA Liguria per averci raccontato tutto questo. Dunque, andate sul nostro sito, iscrivetevi e poi ci sarà lo streaming, che non sarà dunque in radio, ma sarà appunto solamente online. Ci occupiamo adesso di violenza sulle donne. 14 camper nelle piazze di 14 città italiane, due sabati al mese per tutta l'estate. Questo non è amore, è l'iniziativa del Ministero dell'Interno e della Polizia di Stato per creare un contatto diretto tra le donne vittime di violenza e squadre di operatori specializzati, psicologi, medici, legali, forze dell'ordine. Le donne in sostanza potranno decidere di salire su queste strutture mobili, raccontare le loro storie, essere aiutate a sporgere denuncia. Il capo della polizia, Franco Gabrielli. Un modo per esserci e per essere vicino alle problematiche di un tipo di reato che, prima ancora di essere un reato, è una questione di carattere culturale e sociale. In realtà, secondo il Viminale, i reati contro le donne sono in calo. Nei primi sei mesi del 2016, meno 22,9% degli omicidi, meno 23,3% delle violenze sessuali, ma evidentemente non basta. Il ministro dell'Interno Alfano. Siamo soddisfatti della diminuzione di tutti i reati che hanno come vittime le donne, ma, e lo dico a stampatello, non ci accontentiamo. Quindi siamo qui per dire che tutto quello che abbiamo fatto fin qui è positivo, ma non ci basta. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Consigli per il fine settimana: c'è la festa dei musei. Milano, ancora una volta, capitale della cultura. Nell'anno della 21esima triennale, la città di Expo 2015 ospita la 24esima conferenza generale di ICOM, l'International Council of Museum, e per celebrare l'evento il Ministero dei Beni Culturali ha voluto dare vita alla prima edizione della Festa dei Musei, che si tiene domani e domenica. Un fine settimana di appuntamenti con visite ai musei che il 3 luglio saranno totalmente gratuiti, come accade ormai di consueto ogni prima domenica del mese per volontà del ministro Franceschini. A questo evento nazionale parteciperanno i principali musei statali e tutte le realtà museali pubbliche e private. Alla 24esima conferenza di ICOM, che quest'anno festeggia i suoi 70 anni di attività e per la quale verranno nel capoluogo lombardo più di 3.000 delegati provenienti da oltre 130 paesi del mondo, per tutta la prossima settimana fino al 9 luglio sarà invece al centro del dibattito il tema del rapporto tra museo e paesaggio culturale. Il presidente del comitato organizzatore di ICOM Milano 2016, dice Alberto Garlandini. Tutto cambia, anche i musei devono dare il loro contributo a costruire le nuove identità delle nostre comunità in cambiamento e aprirsi a nuovi pubblici e a nuove idee. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.